problemi. Oh raga, io vi saluto, vado a mangiare, dai. Se ci siete, ci sentiamo dopo, perché sicuramente a casa non ci sto. Sicuramente, guarda, 200%. Se cambia un pochino il vento, non riesco a prendere una boccata d'aria, perché qua c'è da schiumare, mi sta attaccando il culo alla poltrona. Ci sentiamo più tardi, se coincide, se no le prossimine. Buona serata a tutti. Ciao Gavino, Dinamite, se mi stai ascoltando. C'era anche Gigi, non so se è partito. E a te Antonello, dai. Vediamo se c'è Gigi. Noi a tutti ascoltiamo Gufo Bianco. Buonasera dall'isola della Sardegna. Ma dove sei? In Spagna o in Francia? Ah, va bene. Santiago dove dici sei a Sassari? Comunque qua, dove Sardegna, compagnia mia. Alessio, Claudio Spalfiero e Davino, guarda, scappa degli anni di Dinamite che sta in banda mobile. Tu che hai un gran praticatore d'antenna, ragazzi, mamma mia, 9-10, lasci il buon guaio. Siamo fatto uscire via Porco Manero. Ma te lo capite, hai visto chi? Di Milano? Allora, conosci anche Luigi Vulcano? Sì, c'era anche Vulcano, per il saluto. Positivo, già lo saluto domani, intanto già lo sento, no domani no, io lo sento domani, intanto riprenderà a casa sua domani. Come mi ascolti lì, in Spagna? Ma io sono molto lontano, sono in Santiago de Compostela, sono in alto proprio, mi sento molto bene. Va bene, ok, avanti Claudio, già dovete sentire anche a te. Se mi ha risposto vuol dire che mi sente, io sono un po' più vatto, non so come me, no? Ho detto, sai che il campionatore d'antenna, Antonio, dai segnali troppo alti, poi ti dimentichi che Santiago 8 qua, ho già gatto 9 più 10. Ok Paolo, io sto andando a cenare, dai, ti saluto e cordialità da Claudio Sparviero qua. Siamo vicini di casa con Antonello. Ci sentiamo alle prossime, fatela buona. Dinamite. 5 manate di Mapis. E qua nell'ufficio delle entrate, direzione sempre di là, città delle bombarde. Ah, capo, all'ufficio delle entrate, fanno la fila, l'altro giorno ho fatto una qua vicino. Prima un tabacchino, ma ne cura di un tutto, adesso la banca. Ci manca solo che non gli ha fatto niente, no, che sembra fuso. C'è Gianni di Chiaromonte, da Vino, e poi uno di San Paolo di Gorso. Intanto parlare, si appaccia poi sparisce. C'è veramente. Stavo parlando Corso, Domenico. Ehi, va bene, non puoi, saluto, vai, che vado adesso a casa. Ma Claudio non c'è più. Ha chiuso la mandigare. Ah, bene, bene. Quindi poi l'amplificatore in prestito, non è tuo tuo? No, veramente questo amplificatore l'ho sistemato io. E il padrone lo sta vendendo 80 euro. Hai capito? Poi se l'ha preso Claudio e poi Claudio l'ha preso, qual è il problema? Comunque io lo sto usando per trovarlo. Capito? E il problema qual è stato allora? Niente, il problema c'è un condensatore da cambiare, c'è uno strumentino che non mi piace, a me sto mettendo lo strumento suo originale e basta, nessun problema. La valvola funziona benissimo, lavora bene, e rende parecchio. Scalda e ci può metterci, ci può piazzare le uova sopra e ce le cucini. Ah, lo scalda molto, E scalda naturale la valvola, tu non hai visto la valvola che non scalda? Però la pigliate un po' di numero MK3 che c'ha 4 valvole senza il vento, ma se ci rimane dentro la camera a 35 gradi. Ah, così è. Ma adesso si è pompato al massimo o come si è messo? Così sono 150. E così sono circolati da 80. Ah, così è. Allora perché BV 131, 150 ne ha? Ma allora stai guardando, lo strumento che c'ha il BV o lo strumento a schermo? Insieme 1000, il watt perché sto guardando. Beh, che velocità ne ha, è interessante. E così lo dà a me. Basta attaccarlo, se non c'è buona nota da cancellarlo, già rende da 10 libri di guadagno, insomma, ti credo che siamo molto. Il problema è che se sei vicino non aumenta molto, ma se sei molto distante, 50 km, 40 km, il segnale varia naturalmente, passa da 10 anche a 15, 20 libri di guadagno, dipende da dove uno è. Hai ragione, adesso che c'è in macchina, che se non c'è nessuno, fammene sempre, voglio sentirlo. Aspetta, però per la ferma devo fare una cosa prima. Prima facciamo le ferme, poi devo passare il batter, se lo aspetta. Ti posso dare un po' di domanda, ma non ti ho. Ti ho seguito troppo la recensione. E se sì. Ehi, quando sto arrivando io? Guarda, 1, 2, 3. Guarda, 50, sì. Ehi, ma non sono a sta potenza. Quanto c'hai? 55. Yeah. sembra avessi chiuso dentro una camera. Ragazzi, chiuso dentro una camera, sto usando il coso l'Intex 550 Power. Cava, cava, eia, va bene, va bene. Sono dietro, non abbiamo sentito. Mi sono andato a prendere una birra, un'altra birra sono andato a prendere. Adesso, che me ne sono dimenticato di comprarla. Cava, cava. No, dico, ci sono sentito adesso in giorno. Adesso non ho sentito nessuno. Cava, cava, Va bene, va bene. Adesso io mi vado a fare un giretto e poi ce ne ricalziamo. Ma è sì con la signora? Papa già! Allora non posso dire parolacce, se no te l'avrei detto un pezzolo. Certo, ma fate vedere se ti è bevuto a tu. Sì, vabbè, dai. Io intanto già ci sto. Eia. Ho sentito da poco, c'era qualcuno che diceva c'ho lo Smith, lo Smith e lo Gimove. Non lo vedo quanto faccia. Ma quello è guasto, se parla così. Che la fa? Oh, io mi... con qualche cazzata ogni tanto, ma... Eia. No, stasera non mi avrei sentito, ma non c'è un furgone. Un altro furgone si è peducato, però mi chiamano lo sportello laterale e paravolti davanti, muso, ma lo stavano sistemando mettendo a posto, la vita. Ma tu che macchina c'hai, tua personale? La Fiesta. Antica la Fiesta? Gala, la Fiesta la penultima, no, non l'ultima, no, la prima. Ma perché? Così, non mi piace molto. Ma la cagata più colossale la K, mamma mia, che macchina brutta. Chiama la K, la K sembra una scatoletta. Non la comprerei mai. Va bene per le ragazze, quella tu, va bene per le ragazze. Una cosa, ma cazzo, cioè, per comprare quella compro la 500, è molto più simpatica e molto più carina, è una linea molto più bella, cazzo, ma chi sa che è bruttissima, cavagama, quello già l'ho visto, ma tu li prefiero dove sei andato? Io vedi, ti faccio vedere le mie gambe pelose. Ora di capo. Io vabbè, io mi sono a casa. Adesso con la moto ci mangiamo queste pizzette. E poi vediamo, ci facciamo diretto. Beh, tu io ti saluto che sono arrivato. Cioè, la riascoltiamo dopo, se coincide, se no, ritirti. Salutato, vai, ciao. No, scusa, no. Non ci fare caso, dai, sto scherzando, dai. Perdonami. Non preoccuparti, ha salutato anche ogni tanto, ma non già ogni volta casino, già mai inteso. Cara, perdonami, ma sto scherzando, sto qui, sono un mezzo imbattinato. Ia, cavagava, là dove sono arrivato. Ciao, salutami gli altri, se li senti che già ci sentiremo più tardi, dai, se ci stanno. Ciao. Ciao. 45. Ora. Eia, ciao Gianni. Ah, sei disperato. E dove sei? A Domo. Ah, capa. No, pensavo che eri uscito con Claudio. No, non stiamo uscendo questi giorni anche perché sto facendo dei lavori a casa e non ce la faccio a uscire. Capito? E tu non stai lavorando? Sto andando a lavorare. Beh, tutto bene, Giuseppe. Insomma, così. da lunedì iniziamo a viaggiare in treno già, perché non è possibile scendere in macchina. Eh beh, se ti conviene ti fa l'abbonamento. L'abbonamento mi viene 50 euro. Giro di una settimana ci sto mettendo cazzo quasi 60 euro di benzina e non arriva manco a giovedì. E la benzina è dura, è bello, si è accelerata ancora. Adesso tu vediamo come da lo zippo io faccio il mese, vediamo un po' quanto mi mette in mano, capito? Secondo quanto mi mette in mano dico che non ci vado più. Vabbè, non ci rimetti in benzina, si difende. Sono facendo 60 euro di benzina, non 6x4, 24, 240 euro solo di benzina. Ti ha contato tu il rischio, uso, gomma e questo e con là. Cazzo, c'è il rischio. Alla fine la macchina lascio alla stazione, ti prendo il treno alle 9:05, arrivo alle 10:20. Aspetto un'oretta, mi farò un giro e poi vado al lavoro. Ma la stazione è lontana da dove devi prendere il treno. Sarà un chilometro, no neanche, mezzo chilometro là. Adesso non fermo più a San Giovanni, se no sarebbe stato vicino. Vabbè. No, io ho detto la stazione di Sassari, lascio la macchina lì e prendo il treno alle 9:05 e poi rientro la mattina alle 8, 9:20 rientro a Sassari, capito, la mattina. E ti ho sentito per caso che stavo girando, perché una carrellata perché non c'è nessuno, stavo ascoltando uno spagnolo e poi ho fatto una carrellata e ho sentito a te. Ho capito, è un periodo un po' balordo, il canale 27 è un po' un periodo balordo che non sentono più nessuno perché no. Non ho capito perché, forse perché c'è troppo caldo. Beh, d'estate gli piace a tutti quanti andarsene in giretta, Giuseppe. E poco di fa. Adesso vediamo. Vediamo un po'. Il baracchino poi da lunedì dormirà a casa, neanche l'antenna, se no neanche a po' quattro. Ma non te ne tocca, i minuti che ti lo do. Ci sono malintenzionati già, lo sai, no? Tirarsi bene, e lo lì, il baracchino dorme a casa, tranquillo, poi se io voglio modulo la sera, quando mi sveglio da casa. Il resto tutto a posto, sì, già. Sì, grazie a Dio, sì. Ho un po' di mal di schiena stasera, ma è dovuto a troppo lavoro e quindi mi sono sdraiato 5 minuti, ma devo fare, mi sto pitturato tutta la sala perché abbiamo spostato il condizionatore che dov'era non rendeva bene, invece lì adesso dove adesso va bene. Ho pitturato tutta la sala, spostato tutti i mobili, i quadri, tutto quanto. Sei giù come stai andando bene, sì? Sì, grazie a Dio, sì. L'importante è quello già. So che stai lavorando il doppio perché adesso ci sono più richieste, no? Adesso c'è molta richiesta, bibite, tutta questa roba qua. All'estate lo sai come acqua, quella roba lì, a pedale, una roba, ti tocchi la schiena ma già lavori, dai, interessa a te e vedere che ci sia il lavoro. Già, per carità, no, io pensavo che eri uscito con davanti quanto Claudio e per andare a pigliarti qualcosa di fresco lì a quel bar là. No, mi ha chiamato anche perché lo sa che sto facendo questi lavori, quindi probabilmente ha capito che non sarebbe possibile ugualmente. Vabbè. Se caso lo senti, salutalo là, sparavo vivo io, se mi lasciano vivo, già. E a chi ti deve amare? Riuscì, c'era l'ascolto magari Claudio, boh, se non è riuscito. No, lo sai che lui, fine settimana, o è dal fratello, oppure c'era farsi qualche giro con la moglie, boh, non lo so. Va bene, io oggi proprio non ne ho voglia perché sono sfinito. Vabbè. Quindi sei già in viaggio? Sono quasi a tutto bella. Mi sta ascoltando bene? A voglia, mi sta arrivando a 9:15 a Radio 5. Cappadappadà. Sono liscio. Ti riesco a capire bene, già, ti riesco. E io come ti sto arrivando lì? Prova a vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Santiago, no, 8. 8. Radio 5. K, eia. Eia. Ehi, tu c'è anch'io, io liscio, non l'ho attaccato, già. Sono liscio, No, va benissimo, liscio, puta. Probabilmente, mica adesso, guarda, adesso avevo magari come per te, come per te. Adesso mi sta arrivando 9, quasi 9:20 qua. 5 di bisogno. Ah? Sono 5 di B. Ega, 9:20 qua sta arrivando. Mi sembra così, a me è tutto Twitter. Vabbè, questo Twitter è un po' per i campi suoi, vabbè. Comunque, mi sta arrivando 9:20, amici positivi, dai, adesso. Prima quanto? 9:10. No, non è possibile. Sta segnando male quella. Aumenta di più. Ma il mio o il tuo? No? Il mio o il tuo? No, il tuo sta segnando male. Aumenta molto di più il mio. Mi dà anche 15 di 20 più 20. Non lo so cosa dirti già. Comunque, devo portargli l'Antonello a regolare, a vedere un po' cosa cazzo gli ha preso, boh. Scusa, la radio come? La radio è buona già, la radio è buonissima. Vabbè, da quando gli ho fatto quel lavoretto, Antonello? No, gli ha baciato il bacio, però... Ma l'ha tarato, sì, però mi sa che me l'ha tarato un po' male. Qua, Luria, lasciamo perdere. Comunque, va bene così, va bene, Luria. Eccomi, insomma, al secondo passaggio di Olmedo, cambio. E la notte come la sei passato, tranquillo, oppure c'ero più scatto? Ieri notte c'era un po' di marea, però niente di particolare, era tranquilla. Alle 4:30 sono giunti i 113 perché quelli, i vicini di là, quei palazzi, hanno chiamato e hanno cominciato a prendere come capito. Il turbo, la fuente era tutto il capito. Sì, ho capito, stavano facendo casino, avanti con Grode. Tanto, avanti. Che era, già? Boh, mi sembra tanto. Boh, non ho detto. Manco io adesso, ho fatto un passaggio solo, aspetta. Gamba. Paga, ma poi prossimo che mi sbaglia. Non sai Giuseppe, stanno pescando un bene in quel posto là, quello dove andavamo noi. Non ho detto che stanno prendendo belle orate, belle pesci. Ma non ho detto che la settimana scorsa hanno preso un'orata preso una da 4 kg lì, una da 3 kg e una da 1 kg e mezzo, 3 in una scelta. Ma questo qua ha preso un chilo in sì, poi ha preso strano, qua mi sembra strano che in quella zona lì dove però era più lontano della dove andiamo noi, poi c'è la torretta, ha preso tre pagelli, mi sembra strano. Ma pagelli proprio lì, non ci credo. Pagelli sono il fanzare. Ma aveva preso tre pagelli, bellini, una porzione, dai. Se mi dici che li peschi al molo, i pagelli ci credo, perché li ho presi anch'io, però non mi dici che li abbrattano a chi, a meno che sei al largo. Hai come detto, ho preso tre pagelli e questa ora come il pesce della Sisi. Ma poi non ho preso altro. Intanto. C'ho problemi, scusate, c'ho problemi un attimo con l'alimentazione, mi sta andando via, però entro subito un attimo con la sistema. Ce l'ho attaccata male. Vabbè, dice. Io le riprendo. Eia, eia. Hai capito già, hai capito. E dunque, ma lei ho preso solo l'altra cosa e che dice c'è stato dalle 9 fino alle 3 di mattina. Allora mi stava strano, eh. Io guardo, l'altra volta sono stato fino alle 2 da solo. La volta che doveva venire Antonio Grosso, dopo non ci è venuto. E quella volta sono stato sino alle 2, ho preso due orate una porzione, là. Non grandi grandi ma bellino. Già. Va bene, oh, yeah. Ma non ho voglia già di andare là, proprio voglia a casa qua, ma però è finito, ho un altro mese poi, finito perché no, bisogna rotolare le palline. E ora? Mi ha pompugno. Ma non è, si lo trovi il battaglio di questa... Mamma mia, sempre lì a coso, anche io, a fare il maniaco. E allora? Ce ne va le night e poi ce ne va a lavorare. È che non è vero, un filosofo è vero. Scusa. Sì, anche mia. Ma non sei da Pompuccio? A Pompuccio. Ho fatto che sei maniaco. Ah vai, che ti faccio il lavaggio della canna quando ti trovo, vedrai, brutto animale, sei bonfino. Antonello, maniaco, perché te lo chiedo basso? Perché sono basso adesso, capito? Non posso rialzarmi, purtroppo è... Mi esce dalla mazza e quindi sono a basso. Non è colpa mia, no? Purtroppo. Vai a lavorare, vai. Anzi, vai a lavorare. Avete un coso, fammi di là. Vai a produrre, Giuseppe. Io da Puccia sono pagano, non meglio non fugare, non provoca niente. No, non riesci ad andare l'antenna, sta tranquilla, la mappa te ne invaria. La mappa te ne invaria, sì. E beh, mi senti bene adesso? Adesso mi sento bene, cazzo brutto, maniaco, cazzo, ci subire i morti. Bene, già ti piace il bicio di 50, no? Capito con la persona? Ah, non hai capito. No, se non ti capito davvero. Prima che se quella persona è venuta a ritirarlo. Brutto maniaco, cazzo, non sei in casa. La fatta se ne vai a casa. E tipo ci hai fatto un colpo di telefono. Non potevi dare, no, a meno avere come capo. l'altro giorno, c'era anche Claudio, ho preso di te, mi ha detto che dice che ti sei fidanzato là, che non cade più nessuno, quindi cosa ti devo chiamare a fare? Come mai sei fidanzato di Alghero, cosa va? Lo sai, io come arrivo a casa al telefono, per me è diciamo, non funziona il telefono, quando arrivo a casa il telefono prendo e distacco perché non voglio rotolare il capo di nessuno, perché quando arrivo alle 8 ho bisogno di farmi le ore del giorno e non voglio rompimento di scatole di nessuno, hai capito? Fai bene, fai bene. Sono contento. Si sa appena ne può contare. Beh, già, tu mi senti. Avanti, Gianni, doppio lu. Io vi saluto. Giuseppe, buona nottata. C'è anche Alice, dai, me ne vado tutto a letto che sono cribato. Tutti, tutti anche gli avventori ascoltoni, SWL. Me ne vado. Ciao a tutti, ciao. Buonanotte. Ciao Gianni, buonanotte. Una buona giornata per domani. Sabato libero sì. Sabato? No, sabato. Lo sai che non c'è, c'è la cosa. Posso essere libero di mattina o di sera. Allora faccio del faccio, non fai uno squito. Appaga. Ah, lavori sabato, ho convinto che non lavorassi. Ciao, ci sentiamo domani, ciao ciao. E ciao domani, ciao, buonanotte.